Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Nel calcio dei laser sparati in faccia al portiere avversario, del record stagionale di espulsioni 8, di squalifiche attese, di altre possibili da prova televisiva, la boccata di ossigeno arriva dal Friuli, perché l'Udinese di Guidolin è la squadra del 2011, guida la classifica dell'anno solare con 30 punti contro i 28 dell'Inter, ha segnato appena un gol in meno dell'attacco nerazzurro con 54 gol, e cioè è arrivata alla quota dei gol segnati lo scorso anno, ma ci sono 9 giornate ancora da giocare che promettono soddisfazioni ulteriori. Sanchez per tutti è arrivato a quota 12, a parte Di Natale, capocannoniere con 24 gol contro i 21 dell'anno scorso in questo stesso momento. Sanchez, che nei primi 2 anni a Udine ha segnato 3 gol il primo e 5 il secondo, è oggi arrivato a 12 gol, e che gol tra l'altro, se pensiamo a quello di ieri a Cagliari, che a me ha ricordato il miglior Ronaldo, non Cristiano, quello vero, quello ancora più vero, e ha segnato direi il più bel gol della giornata, ex aequo, anche se quell'altro è una prodezza balistica, con Lhama, quello il giocatore del Catania. Insomma, anche i numeri cominciano a dar ragione a Guidolin, e non soltanto la cifra di gioco. Sentiamolo, Don Francesco, al microfono dopo la partita. Siamo allo scoperto e vediamo di resistere alle avversarie, al ritorno delle avversarie, cercare di fare Catania qualche, di vincere ancora e di proseguire, se possibile, migliorando ancora la nostra classifica. Stiamo facendo delle cose che non sono molto normali nel nostro panorama calcistico, vuol dire che si è creata un'alchimia tale per cui è quasi una cosa che sarà difficile rivedere, nel senso, sto già pensando un po' al futuro. Futuro che si annuncia, insomma, il presente è radioso, poi il futuro si vedrà. Qualcuno comincia a esagerare e a guardare il calendario dell'ultima giornata, che prevede Udinese-Milan per l'appunto al Friuli. Io credo che se l'Udinese non perde di vista la realtà, e secondo me non la perde conoscendoli, questo può essere poi eventualmente un ragionamento da fare più avanti. Se comincia a pensarci sin da ora, secondo me sono rovinati per l'appunto sin da ora. Un giudizio su Sanchez affidato al suo partner d'attacco, Di Natale. Lui è un ragazzo che 3 anni qui con noi sta migliorando tanto, e secondo me da 2 o 3 anni diventerà il primo mondo. Per me sì, perché avere 21 anni a dimostrare in Italia non è facile, perché fare gol in Italia è sempre difficile, però lui ha delle qualità fuori del normale. Un ragazzo che alla fine il presidente Pozzo, speriamo di tenerlo, però credo che alla fine se lo merita. È un ragazzo che secondo me le squadre più forti in Europa e in Italia lo stanno molto, molto vicino. La sensazione è quella, ma è ovvio che in caso di qualificazione alla Champions League, insomma, che a questo punto è diventato l'obiettivo vero, non dico minimo, ma insomma l'obiettivo vero dell'Udinese, e non è detto magari che l'obiettivo non possa diventare quello di arrivarci direttamente senza passare per le qualificazioni, cioè in poche parole piazzarsi nei primi 3 e non nei primi quattro posti. Al terzo posto per il momento c'è il Napoli, che è tornato a ridurre, grazie a Bari e a Brescia, è tornato a ridurre le distanze dalla testa, insomma dalle milanesi. E allora il commento del rientrante Lavezzi su questa vittoria a Parma. Decisiva è stata la squadra. Abbiamo fatto un brutto primo tempo, però per fortuna siamo riusciti a uscire di un'altra maniera, no? Abbiamo messo quello che dobbiamo mettere per vincere ogni partita, e per fortuna siamo riusciti a vincerla, no? È una vittoria importante. Ogni partita è importante e ogni vittoria è importante. La realtà è che vogliamo lottare per traguardi importanti. Per fortuna oggi siamo venuti a un campo difficile e siamo riusciti a vincere. E questo era Lavezzi e la soddisfazione del Napoli. Poi, sempre ricordandovi che la seconda parte, insomma, che da tra poco apriremo i microfoni per i vostri commenti del lunedì, come accade in ogni settimana di campionato, Poi c'è il derby che ha significato tante cose, compresa la grande rivincita di Totti, che addirittura nelle ultime edizioni di derby si era detto meglio che non ci sia per la Roma, meglio se c'è per la Lazio. Beh, ieri non mi sembra che sia andata così, e dopo tutte le panchine degli ultimi tempi, se c'è stato un protagonista assoluto ieri in campo, questo è stato certamente Totti. Sentiamolo. Importantissimo, che vincere contro la Lazio fa sempre un certo effetto, poi soprattutto fare gol da un romano, un romanista verace, una doppia soddisfazione. Poi è un momento particolare, dove veniamo da una brutta sconfitta ai Donetsk, e sono contento per la squadra, soprattutto per la gente, per mia moglie, anche perché ero 9 anni che abbiamo fatto ieri insieme, e era destino che quando mi sono messo con lei ho fatto gol la prima volta, e oggi uguale. Sono passati anche un po' di anni. La Lazio non ha contestato tanto la sconfitta e nemmeno le espulsioni, anche perché sono state 2 anziché 3, visto che la più netta, la più diciamo pure vergognosa, era quella di Mathusalem per quel pestone in faccia a Totti già a terra. Non ha contestato quello, ha contestato il laser che ha infastidito, come minimo, non so se ha accecato o meno, ma certamente infastidito decisamente il portiere sulla punizione di Totti, e poi anche sul calcio di rigore. Il calcio di rigore mi sembra che cambiasse poco, la punizione, visto che poi di papera si è trattato. Oddio, è vero che Muslera non è vergine da questo punto di vista, però è anche vero che quel raggio verde sparato tra gli occhi potrebbe davvero averlo penalizzato in quella circostanza. Da qui la protesta furibonda di Rotito, che ascolteremo subito dopo gli aggiornamenti del traffico. Dicevo dei laser che tra l'altro contemplano, secondo i regolamenti attuali, contemplano soltanto multa alla società. Io credo che sia tempo di cominciare a studiare qualcos'altro, perché i laser, se usati a questa maniera, possono probabilmente, non c'è la prova, ma possono forse inficiare il risultato in una partita. Certamente un portiere ne è disturbato in maniera fastidiosa come minimo, ma magari anche determinante in certe circostanze. Sentiamolo Tito. Nel caso del laser che continuamente disturbava Muslera, un laser peraltro non a puntino ma addirittura era un rettangolo, che ha colpito ripetutamente Muslera, e aggiungo durante la punizione, non solo, è iniziato con la punizione, e noi avevamo fatto presente che c'era questo disturbo continuo nei confronti del portiere, è stato fatto presente dal portiere. Innanzitutto diventa anche pericoloso perché crea dei danni alla retina, come voi sapete, e secondo, impedisce al giocatore di poter dare la prestazione che deve dare, quindi questo deve essere assolutamente censurato. Censurato non c'è dubbio, sanzionato secondo le regole attuali altrettanto, ma studiato secondo me in prospettiva sì, perché è inutile che ci si illuda che la civiltà negli stadi salga. La civiltà negli stadi non sale, perché se salisse il vicino riposto di chi sta usando il laser in faccia a un portiere gli spiegherebbe che uso fare di quel laser, ma tanto è inutile farsi appunto di queste illusioni. Allora tanto vale cominciare a prendere in esame qualcosa di più serio. Buongiorno Gigi, scrive Riccardo, ma quanto è piacevole e divertente vedere Zamparini cambiare allenatore e continuare a perdere partite, e per contro Guidolin, da lui preso e scaricato più volte, lottare per le zone alte della classifica. Beh, effettivamente non dispiace, ecco, mettiamola così. Alberto, Torino, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Io volevo fare una breve considerazione, che di fatto parlo innanzitutto da tifoso juventino deluso, e da un po' di tempo mi sto guardando un po' in giro. Diciamo che sto apprezzando più il gioco delle altre squadre, anche perché questo è un campionato abbastanza interessante sotto questo punto di vista, con un Udinese che mi sta entusiasmando a mille. Spero vivamente che possa proseguire in questa cavalcata sempre di più. La mia riflessione di fatto era un'altra, però volevo chiedere il suo parere su quello che riguarda questa aggressività che ormai non ha più limiti da parte dei giocatori nei confronti degli arbitri. Ad una minima decisione che per loro non si confà a quello che loro pensano, subito scattano con ira, con facce incredibili, di rabbia che sfugge da tutte le parti nei confronti degli arbitri. Mi viene in mente la faccia di Maggio ieri sera quando non gli è stato fischiato il rigore. Io sono un ex arbitro e mi ricordo che così, ne converrà anche lei, come non esiste più la regola in area del gioco pericoloso con calcio di punizione indiretta, sì. Io mi ricordo che una delle prime cose che mi hanno fatto studiare, che mi dicevano, è che l'arbitro deve parlare solo ed esclusivamente con i capitani delle squadre. Certo. Cioè questo, io mi chiedo perché siamo arrivati ormai in un'era dove si parla tanto di educazione ai giovani, far arrivare il messaggio migliore. Certamente i calciatori non danno questo messaggio nel migliore dei modi. Ecco, volevo il suo parere. Quale vuole che sia il mio parere, Alberto? È assolutamente il suo, ed è rafforzerei il concetto ricordando che questa è una specialità nostrana, purtroppo, ed è un problema di educazione che c'è soprattutto sui nostri campi, non solo, perché ogni tanto accade anche altrove, ma accade in misura molto, molto minore. Non so, ieri sera, dopo pochi minuti, hanno annullato un gol a Barcellona per ragioni assolutamente misteriose, che lo stesso arbitro deve ancora capire adesso che cosa ha fischiato, nel senso che Messi ha calciato un pallone da fuori area su punizione, l'ha messo nel 7, arrivederci. L'arbitro si è inventato, ma letteralmente inventato, che un giocatore del Barça, Busquets, avesse infastidito la barriera, cosa che prima dell'esecuzione della punizione poteva anche essere avvenuto, ma poi nei secondi che sono trascorsi prima della battuta assolutamente no. Bene, hanno annullato un gol alla capolista del campionato spagnolo e questi hanno alzato gli occhi al cielo e sono tornati rapidamente a metà campo. Ora, anche su campi stranieri, parlo di Spagna, di Germania, di Inghilterra, si vede ogni tanto che l'arbitro viene diciamo pure circondato, ma capita intanto non una volta a partita, capita una volta ogni tanto. Circondato non vuol dire sballottato, come invece per esempio è successo ieri a Tagliavento, che è stato bravo, la sua parte l'ha fatta, ma se la fa fino in fondo la Lazio finisce probabilmente in 6, e quindi è evidentemente un problema particolarmente nostrano e non tanto un problema generale. Fabio Udine, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi, se posso chiamarla così cortesemente. Allora le spiego, io intanto... Se mi chiama Ernesto è un problema, ma se chiama Gigi va bene. No, perché la ricordo in alcune trasmissioni. Sì, certo. Parliamo di questa, dai Fabio, dica. Sì, niente, io intanto sono dell'Udinese, ci mancherebbe altro di Udine, e volevo solo che lei potesse dare il suo parere su una considerazione in primo luogo, cioè... l'Udinese è una grandissima squadra, però secondo me, perché ci chiamiamo Udinese, dovremmo chiamarci in un altro modo, abbiamo veramente dei fuoriclasse. Prende in considerazione appunto la partita dove abbiamo vinto 7-0, 4-0, eccetera, e considera le partite dove per esempio manca Isla, Inler, cioè per intenderci, quello che voglio dire è che effettivamente non c'è solamente Di Natale e Sanchez. Cioè veramente questa è una squadra che secondo me deve essere un po' rivalutata, tutti ne parlano bene, ci mancherebbe, però a livello di singoli secondo me dovrebbe essere un attimino rivalutata. E poi in secondo luogo, perdoni, sento sempre parlare nella sua trasmissione di arbitri che sbagliano, di proteste, le dirò una cosa, che nella giornata nella quale noi abbiamo pareggiato in casa con il Brescia, mi era un attimino così svanito dall'idea di poter vincere lo scudetto, che onestamente Udine siamo ancora, visto che giochiamo col Milan l'ultima di campionato, ci speriamo ancora. Però ci tenevo a dirle appunto questo, che noi quella partita con il Brescia in un certo senso ci ha fatto vincere lo scudetto del fair play, nel senso che quella stessa giornata ci sono state tantissime situazioni di proteste, di contestazione eccetera. Noi abbiamo giocato male, onestamente male, però effettivamente mi sono reso conto che siamo una squadra dove non protesta nessuno, non si parla mai di arbitro. Speriamo che continui così, Fabio, speriamo. E dove il terzo tempo, mi perdoni, da noi. Sì, sì, sì, sì. No, certo, speriamo continui così, perché poi non ci vuole molto a... a spugnare le cattive abitudini e poi a farle proprie. E io credo che l'Udinese fin qui abbia avuto anche la decisiva forza dei nervi distesi, nel senso che essendo partita così male ha viaggiato a fari spenti, ma ha viaggiato non solo a fari spenti, che adesso ormai sono accesissimi, ma ha viaggiato senza stress, senza pressioni, cioè tutto quello che faceva era di più o era di buono, e questo ha consentito appunto ha dato questo valore aggiunto alla squadra, che è la serenità. Adesso qualche pressione in più comincia a esserci, speriamo che tutto continui a essere vissuto così, perché dato che di santi nel calcio non c'è nessuno, io sparate di pozzo contro gli arbitri, avendo un discreto archivio che conservo negli anni, ne ho da parte, quindi ripeto, santi non ce n'è da nessuna parte. In questo momento c'è una magnifica squadra che ha oltretutto questo tocco di signorilità in più. Ripeto, speriamo che duri, non santifichiamo mai prima del tempo. Giuseppe, provincia di Messina, buongiorno. Ranzini, buongiorno. A proposito di archivo, io qui davanti c'ho l'album delle figurine dell'anno 81-82 e leggo Scirea libero, Sergio Brio stopper, Gentile terzino destro e Cabrini terzino sinistro. Sì. 30 anni dopo leggo Chiellini difensore, Bonucci difensore, Vecelli difensore. Adesso io le chiedo, visti i gol che oserei dire assurdi, ridicoli, che la Juventus prende contro il Lecce, contro il Bologna, il primo gol di Divaio, c'è Bonucci che lo tiene in gioco, anziché cercare di chiudere sul Divaio, cerca di fare il fuorigioco in ritardo. Ma gente del calibro di Scirea, scusando il paragone con i giocatori attuali, Cabrini, Gentile e Brio, certi gol così stupidi l'avrebbero mai presi? Beh, Brio sì, perché Brio era scarso e poteva permettersi di giocare nella Juve, perché era uno squadrone tale che difensivamente ma anche come fase difensiva completa, cioè centrocampisti inclusi, che poteva permettersi di supportare anche Brio. Dopodiché sì, ci sono le generazioni, ci sono le annate migliori e ci sono quelle negative. Io per esempio dell'altra sera a Cesena devo ancora capire adesso come sono stati gestiti i cambi da Del Neri, però lo devo capire ancora anche da Leonardo la sera prima a Brescia, e le dirò che qualche curiosità ce l'ho anche su Allegri ieri a San Siro. Secondo me le tre squadre a strisce questa settimana, i tre tecnici delle squadre a strisce, se ci mettiamo a vedere i cambi tra Cordoba, tra il ritardato ingresso di Seedorf ieri, non si sa mai che magari la curva non la prendesse così bene, e tra Del Piero fuori dopo 70 minuti con la vena dell'altra sera, beh, insomma, qualcuna divertente credo l'averla vista. Tocca a Piero da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottore. Sì. Senta, io sono milanista, però l'argomento è Udinese, perché io credo che di fronte a una squadra così bella da vedere non si può che non parlare di questa grande squadra. L'unico di augurio è che, essendo Udinese Milan l'ultima partita, mi auguro che il Milan abbia quel vantaggio necessario per non rischiare la fatale Udinese. Nel senso che il gol di Sanchez io credo che sia stata una cosa stratosferica, tra l'altro si è ripetuto su un'altra simile azione, adesso non mi ricordo in quale partita, dove ha fatto sedere il portiere e ha praticamente fatto un gol, io credo, strepitoso. Piero, non c'è nessun dubbio. Il procuratore della Federcalcio Stefano Palazzi ha inviato al giudice sportivo a Tosero una segnalazione sull'episodio del calcio in faccia, del pestone in faccia direi meglio, di Matusalem a Totti. Ora il giudice sportivo dovrà appurare se l'arbitro ha valutato in diretta il fatto, ma nel caso Tagliavento non avesse visto, ed escludo che l'abbia visto, molto probabilmente per Matusalem scatterà la prova TV, che non sarà, io credo, la sola di questa giornata, al di là di squalifiche molto pesanti a cominciare da quella di Ibrahimovic, che andrà certamente dalle due a più probabilmente le tre giornate. Secondo intervallo di oggi per i mercati. sono un tifoso laziale, scrive Marco, ma nessuno ha ancora detto ci si deve vergognare del comportamento dei nostri giocatori. Beh, l'hanno detto in pochi, per la verità, però in effetti ci potrebbe stare. Non crede, domanda Giulio Torelli, che la squalifica di Ibra potrà aiutare Pato a diventare protagonista di questo finale di campionato. Sì, lo credo possibile. Credo anche che l'Ibrahimovic di ieri e di Londra non serva tantissimo al Milan, perché oddio, c'è di peggio in giro, questo è evidente, ma insomma, da prevedibilità anziché dare imprevedibilità. E poi sbaglia l'assist di ieri di Cassano. Credo proprio che sia uno di quei gioielli che sprecare calciandolo male fuori, come l'ha calciato Ibrahimovic, non sia facilissimo. Qualcuno ricorda che Brio, per esempio Milo da Prato, ma anche altri ascoltatori, che Brio di testa era insuperabile, era molto forte di testa grazie anche alla statura. Però io credo che se si ricordano dei difensori centrali della storia della Juventus, insomma, prima di arrivare a Brio ce ne siano stati altri. E dato che il concetto dell'ascoltatore intervenuto era, mi pare, la Messina, era sulla decadenza della qualità dei difensori della Juventus, beh, insomma, non mi pare che Brio sia il primo tra i primi da citare, come l'ascoltatore ha fatto. Ma perché Lotito si arrabbia, scrive Filippo Goss, non dovrebbero essere loro a garantire che certi oggetti non entrino allo stadio? Il possessore del laser è stato individuato e accompagnato all'uscita dagli steward. Beh, insomma, lei evidentemente sta disegnando una realtà che deve aver letto sui giornali, ma senza mai abitarlo, uno stadio, nemmeno in questi ultimi tempi, in cui la tessera del tifoso, come noto, l'ha reso pulito e civilmente abitabile. In ogni caso, Lotito si arrabbia anche perché la partita ieri è Roma-Lazio, non è Lazio-Roma, e quindi la responsabilità, semmai, di questo filtro, di questa gestione da parte degli steward, era della Roma e non certo della Lazio. Poi parliamo anche di Mazzarri e di istruzioni alla squadra da squalificato. Adesso sentiamo Ugo da Salerno. Buongiorno. Buongiorno Garanzini, è sempre un piacere poter intervenire alla sua trasmissione. Grazie. A proposito del derby Roma-Lazio, del laser che ha danneggiato il portiere Muslera, io vorrei dire, il fatto che la giustizia sportiva non intervenga non è un modo, secondo lei, per premiare, tra virgolette, questi episodi? Cioè, io credo che per prevenire anche certi comportamenti e certe situazioni bisognerebbe, non dico far ripetere la partita, anche se effettivamente la Lazio potrebbe essere stata danneggiata in occasione del calcio di punizione, ma per esempio giocare una gara senza pubblico, o al limite soltanto la curva romanista, dovrebbe, in modo da dare un segnale anche ad altre tifoserie e ad altri gruppi ultra che potrebbero rendersi protagonisti di episodi analoghi. Certo. Ma sono d'accordo, infatti io credo che questo problema andrebbe affrontato molto più seriamente di quanto non sia stato sino ad ora. L'ho detto all'inizio, che cavarsela con una sanzione pecuniaria, come accade oggi per questo genere di scorrettezze gravi, mi sembra non ottiene nessun risultato. No, mi sembra che sia sottodimensionato, ecco. Diverso è il caso di Mazzarri. C'erano prima alcuni messaggi, adesso non riesco a citarli perché temo di averli persi, provo a ripercorrere velocemente il display, ma insomma è difficile perché a lunedì scrivete sempre in tanti, ma oggi siete più numerosi ancora del solito. Comunque qualcuno si chiedeva se il fatto che, eccolo qua, stavolta Piangina Mazzarri non si lamenta dell'arbitro, ma se è squalificato può dare indicazioni col telefono, per esempio, scrive Carlo da Cremona, ed erano anche altri che se te lo mandavano. Io credo di no, perché il codice di giustizia sportiva, articolo 22.7, dice: i tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare. In particolare sono loro preclusi In occasione di gare la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno di recinto di gioco e spogliatoi. Quindi se Mazzari è stato pizzicato ieri a parlare al cellulare dallo stadio, dalla tribuna, ed evidentemente è difficile pensare che stesse parlando con casa, stava ragionevolmente dando istruzione alla squadra, ed è possibile che se il giudice sportivo, se la cosa è stata segnalata da qualche referto, qualche referto non credo, ma se subentra una sorta di prova televisiva, penso che Mazzari possa essere ulteriormente squalificato. Lo dico perché mi segnalava Franco Piantanita prima che lo scorso anno l'allenatore della Cremonese, per esempio, ha avuto una giornata in più, una giornata supplementare di squalifica, proprio perché durante la giornata di squalifica dava istruzioni via cellulare. La stessa cosa la fece Mourinho e evidentemente non ci fu la giornata supplementare. Dipende sempre dai vasi di coccio e dai vasi di ferro, bisogna vedere se dopo le Genoveffe di De Laurentiis adesso il Napoli è diventato un po' più vaso di ferro e un po' meno vaso di coccio. Staremo a vedere. Antonio, giusto da Napoli, buongiorno. Signor Garanzini, buongiorno. Dì. Io avevo chiamato per un altro problema. Vabbè, comunque adesso in questo attacco sempre su Mazzarri da parte un po' di tutti, vabbè, anch'io su certe cose contesto Mazzarri, però lasciamo perdere, le faccio la domanda per cui ho chiamato. Mi chiamo inerente al fatto che prima un ascoltatore, signor tifoso della Juventus, anche ha detto che arbitro, gli è dato fastidio, non so com'è, che ha visto un comportamento di Maggio di ieri sera un po', diciamo così, scorretto verso l'arbitro quando non gli ha dato il rigore, giusto? Diceva questo? Sì, ha esemplificato, ha fatto un esempio di proteste particolarmente veementi. Chiedere a lei e a quell'ascoltatore che ha chiamato prima, ma ha mai visto il modo di Gattuso, di Del Piero, di Totti, di De Rossi e di quant'altri giocatori, il modo di inveire contro l'arbitro, certo, altre volte? Gli è stato solo presente ieri sera il modo di Maggio? Di no, gli è venuto questo esempio qua, Antonio. Anch'io le dirò che quando ha fatto l'esempio di Maggio ieri sera ho pensato che l'esempio fosse, per carità, calzante, riferito a ieri sera. Diciamo che come continuità, proprio strutturalmente parlando, diciamo che ce n'è altri in particolare, e per esempio sono tutti quelli che lei ha citato, se parliamo di rapporti con gli arbitri. Quindi su questo lei ha oggettivamente ragione. Torniamo a sentire una voce, che magari riprendiamo una piega leggermente diversa. Potremmo provare a sentire, vediamo un po', dunque Allegri, beh, insomma, no, sentirei il Bologna, sentirei Malesani, perché è giustamente un atto di omaggio anche ad un'altra squadra che sta andando molto, ma molto al di là di quello che ci si attendeva, e che in un certo senso, adesso se dico l'Udinese dei poveri a Bologna si offendono, ma considerate le risorse tecniche a disposizione, credo che il Bologna di Malesani sta facendo un campionato in linea e quindi praticamente eccezionale con quello che sta facendo l'Udinese di Guidolin. È Bologna che va forte, non lo so da cos'è, però va veramente forte, sorprende anche me, però si è innescato un meccanismo di mentalità giusta, quella che noi andiamo in campo e siamo tosti veramente, e va bene così, è cambiata la mentalità dentro questa squadra, sa interpretare bene la partita la mia squadra, perché all'inizio abbiamo spinto di più, abbiamo colpito il momento giusto, potevamo raddoppiare, però è vero che abbiamo sofferto nel secondo tempo un po', ma grossi pericoli non ci sono stati nella nostra porta. E questo, l'ultima parte, era riferito alla vittoria di ieri a Lecce, che insomma il Bologna era salvo da tempo, ma ieri lo ha ieri questa salvezza è arrivata in maniera definitiva, tenendo anche conto che i 39 punti, si scrive 39 ma si dovrebbe leggere 42, perché 3 se ne sono andati per penalizzazione, a 42 punti il Bologna sarebbe esattamente a pari punti con la Juventus. Luca da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno per Garanzini. Grazie intanto per aver chiamato. Velocemente, riguardo la Juve, che le abbia bisogno di conforto, ma c'è una finale di Coppa Intercontinentale, se non sbaglio, che esce Sciré, entra un certo Pioli, in campo c'è anche un certo Favero e fanno lo stesso un figurone, da tanto era forte quella squadra. Sì. E invece poi le volevo chiedere un'altra cosa. Io so che lei è allergico alle presenze televisive, o almeno mi sembra di ricordare un particolare interesse a un parire in TV. Però ho sentito degli opinionisti queste anche ieri giustificare il fallo di Ibrahimovic, giustificare il fallo di su Totti, giustificare le proteste, cioè senza avere il coraggio di dire che certi atteggiamenti sono sbagliati, certe cose sono sbagliate. Hanno discusso 5 minuti, c'era un fallo grave o violento, quello di Ibrahimovic, quando, se non sbaglio, il fallo di reazione è sempre sanzionato, no? Fare una reazione però, è semplicissimo, il miglior commento direi sull'accaduto l'ha fatto Ibrahimovic, che ha preso e se n'è andato senza fiatare, come era ovvio che dovesse fare. Brighi, ieri c'era un arbitro a Berlino, no? E non sempre è accaduto in stagione, e quest'arbitro ha preso a San Siro tutte le decisioni esatte, che ne possa aver detto qualcuno. Intervallo per le strade. Sentiamo che cosa ha trovato per oggi 14 marzo Nicola Filippone. Sembra ieri. 14 marzo 1937, 24esima giornata di campionato. Al 15esimo minuto del secondo tempo di Fiorentina-Genoa, gara che gli ospiti vinceranno per 2-1, succede un episodio unico nella storia del campionato italiano. Il direttore di gara Camillo Caironi da Milano e il guardalinee Giuseppe Giannelli da Siena litigano su una decisione e il collaboratore per protesta abbandona il campo. Lo sostituisce Achille Pizziolo, un arbitro fiorentino che si trovava in tribuna a vedere la partita e che consente così la conclusione regolare della gara. È fantastico. Un Nicola Filippone dannata proprio questo, veramente delizioso. Dunque, tanti messaggi che faccio un po' fatica, tra cui faccio un po' fatica a orientarmi, e tanti interventi ancora previsti. Per esempio Mauro da Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Volevo fare delle considerazioni veloci e poi attendo le sue risposte per radio. Volevo parlare, io seguo calcio dagli anni 70 e vedendo il tifoso della Juventus, e sono arrivato alla conclusione che veramente a oggi in Serie A può giocare chiunque. Potrei giocare anch'io che ho 45 anni, vedendo quella gente che sta in campo adesso, che non riesce a dare del tuo al pallone. La seconda considerazione è che forse un allenatore bravo, una bravissima persona come Del Neri, ma secondo me si sta rivelando un po' sopravvalutato a certi livelli. La terza e veloce è che i tifosi dell'Inter dovrebbero preoccuparsi se a Ibrahimovic in questo momento la squalifica non gliela danno. Questo non è male. E poi sinceramente cioè, è un calcio che... E poi il resto mancia, mi sembra che il resto mancia, lei stia dicendo, grosso modo. Però sì, è vero, cioè non stiamo vedendo giocare sto granché, no? In questo periodo, in questa fase storica. Poi ci sono evidentemente le eccezioni, sia di squadre come in questo momento l'Udinese, sia di giocate singole che non mancano ogni domenica. Però insomma, se parliamo di continuità e di cifra complessiva, non so, mi veniva in mente l'altra sera, vedendo quell'errore pazzesco di Giaccherini, che Giaccherini è andato oltre Eto'o. Perché fino adesso l'errore con la E maiuscola di quest'anno era Eto'o, e quando ogni tanto sento dire che quel tale arbitro ce l'ha con quella tale squadra, io penso che Giaccherini, cioè se noi dovessimo applicare lo stesso ragionamento, allora Giaccherini ce l'ha col Cesena, oppure nella fattispecie non voleva come dire danneggiare o comunque far gol alla Juventus. Poi uno pensa ad Eto'o e dice, ma possibile che Eto'o non volesse far gol alla Juventus? Cioè, intendo dire che se cominciassimo a pensare male sugli errori dei calciatori, come automaticamente pensiamo male sugli errori degli arbitri. Vabbè, a parte che non so dove arriveremmo, ma una riflessione che ogni tanto credo si potrebbe anche fare. Antonio è in linea da Grosseto, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. Senta, volevo fare una considerazione sul Milan di quelle parole finali di Cassano al portiere del Bari, al Gilet, poco serie secondo me, che si sono viste, ma ci avete tolto 2 punti, una cosa del genere, ma proprio non ho capito cosa possano significare a fine di una partita. E poi il caso Ibrahimovic, come quello di diciamo dell'espulsione della Lazio, se arriverà alle tre giornate come sono arrivati per gli altri, resti in attesa di una sua risposta. Sì, se avessi capito meglio la domanda, l'attesa sarebbe breve, così è un tantinello più lunga. Restiamo a Cassano. Cassano ha detto queste frasi insomma, a Gillet, ma pare non solo a Gillet, come ex Barese a fine partita. A fine partita ha detto, ma insomma, grosso modo, vado un po' per le spicce, ma chi ve l'ha fatto fare di impegnarvi così tanto, visto che tanto siete ugualmente in B, secondo una versione. Secondo un'altra versione un po' più edulcorata, avrebbe detto invece, se vi foste impegnati così tutto l'anno, a quest'ora il mio Bari non sarebbe praticamente in Serie B. Io non ci trovo assolutamente nulla di male, per una semplice ragione, che la partita è finita. Se quelle frasi le avesse dette durante la partita, allora sarebbe tutto un altro paio di maniche. Se a fine partita, oltretutto in maniera certamente non scomposta, in maniera non plateale, fa queste considerazioni a voce alta con dei colleghi di altre squadre della sua città, non vedo proprio di che cosa possa essere accusato Cassano, secondo me nemmeno di cattivo gusto, però questo è come sempre molto soggettivo. Enzo Bologna, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Ma volevo entrare un attimino nel discorso del fallo di Ibrahimovic e di quello di Matusalem, perché mi sembra che il fallo di Matusalem, allora intanto si giocava con scarpini da pioggia, quindi i tacchetti immaginiamo come possono essere, dopodiché è un fallo di una gravità mostruosa, perché i pestoni se ne sono visti dare sulle gambe, sulla schiena, ma in faccia è una sticella che si è spostata troppo in alto, sì. Lo vedo di una gravità perché l'ha mezzo sfiorato, ma se gli prende bene in faccia, perché la testa è se schiacciata, gli prende lo zigomo l'occhio, gli parte l'occhio, non c'è dubbio. Sì, se gli va bene, ma se gli prende il cranio, beh, insomma, è una martellata, eh. Per fortuna sono d'accordo con lei, per fortuna non gli ha preso nulla, però è stato un gesto assolutamente orribile. Io credo che Matusalem spero che andrà incontro a una lunga squalifica, perché pur con tutta la compressione possibile per le tensioni di una partita, però sinceramente l'idea di rischiare di fare così male un avversario, purtroppo già nel calcio con l'entrata scivolone, che ormai sono in uso da qualche tempo, il rischio di pestare un avversario c'è sempre, e c'è il rischio di pestare un avversario involontariamente, perché a un certo punto perdi l'equilibrio e il piede da qualche parte lo devi appoggiare e rischi di metterlo sull'avversario a terra, però cercargli, perché che gliela cerchi non c'è nessun dubbio, cercargli la faccia è tutto un altro paio di maniche, e mi auguro che comporti tutto un altro paio di squalifica. Alfredo, provincia di Latina, buongiorno. Buongiorno. Allora, quattro cose flash, se mi consente. Quattro sono tante, però ci proviamo. Sì, però flash Gordon. La prima è complimenti, il programma sportivo più bello che c'è in circolazione. Vabbè. La seconda, condivido esattamente la storia degli errori, arbitri, giocatori, speculativa, soliti discorsi, eccetera. È uno sport, si sbaglia e sbagliano tutti. Terza, volevo dire, sono un interista sfegatato, è un anno che soffro da quando è arrivato Leonardo, c'ha la faccia da milanista, ce l'ha proprio negli occhi che è milanista, non può stare alla panchina dell'Inter, tra l'altro incompetente, lo si vede in tutte le settimane, nei cambi, eccetera, eccetera, non ha forte personalità, per cui il caso che l'Inter è tornato a vincere perché sono ritornati i giocatori, eccetera, eccetera, va bene. Ultima cenno è Stankovic, grande campione, ma è da tempo che fa partite opache e rischia di mettere a repentaglio sempre i risultati dell'Inter. Io rivedo due o tre volte tutte le partite dell'Inter, me le registro e le rivedo, e beh, Stankovic sbaglia l'80-90% dei palloni, degli appoggi. Meno che a Brescia, dove se non c'era Stankovic alla fine non era a repentaglio la sconfitta col Brescia, ma era sanzionata, perché senza il suo recupero a ritroso l'Inter quella partita non la salvava, senza il suo recupero e senza poi il miracolo, o comunque il miracolo no, ma la gran parata su rigore di Julio Cesar. Grazie a tutti gli intervenuti anche oggi, a Carmelo Lauricella in regia, a Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.